Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria in compagnia di Diego Manetti, di questo appuntamento con conversazioni che potremmo dire dedicate ai novissimi, all'escatologia. Da alcuni anni abbiamo introdotto questa tematica, se vi ricordate, con una ragione, potremmo dire quasi l'intento di compiere una piccola missione di controinformazione, perché dicevo qualche anno fa è come se fosse calata un po' una cappa di silenzio su alcuni argomenti fondamentali per la fede, ma per la vita del cristiano e dell'uomo in generale, perché quando pensiamo ai novissimi ci riferiamo a quei temi, a quegli argomenti che hanno a che fare con la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Significa quelle questioni ultime, quelle domande che si agitano nel fondo del cuore dell'uomo. Avevo cominciato proprio 5 anni fa proponendovi capitolo dopo capitolo un testo che ha dato il titolo a questa trasmissione, che ancora prosegue pur avendo terminato nel giro di poco più di un anno la lettura dell'opera, che si intitolava appunto Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. E cosa capita? Che questo libro esce 5 anni fa, pubblicato da San Paolo, e riscontra un certo tipo di interesse, al punto che vengo invitato e chiamato a parlarne. Diventa un po' il tema per eccellenza di quelle catechesi o testimonianze che già facevo in parrocchie, associazioni e gruppi un po' ovunque in giro per l'Italia. A dire il vero, chi mi conosce sa che ho sempre avuto a cuore questo tema, per la ragione che l'ho proprio vissuto, ecco, un po' sulla mia pelle come primo desiderio nell'abbracciare quella fede verso la quale non posso dire mi sono riconvertito, ma forse ho incontrato per la prima volta quando avevo 15-16 anni. E devo dire che queste domande proprio sul senso della vita, sul compimento di questa esistenza terrena in una prospettiva ulteriore che fosse spalancata sull'eternità, mi ha sempre accompagnato ogni volta che mi interrogavo sulle questioni della fede, del credere, di Gesù Cristo, della Chiesa, della vita, della morte, dell'uomo nel mondo. E allora in questo testo ho messo un po' tutte quelle che erano le mie riflessioni, l'ho proposto, c'è stata una buona accoglienza e ho cominciato sempre più a tenere in evidenza un tema che, come dicevo, correva già in sottotraccia nelle mie ricerche, nei miei scritti, ma anche nelle testimonianze da diversi anni. Posso dire che forse quel libro è stato un po' come la spremitura di uva matura e quindi è venuto fuori qualcosa di buono che portavo però dentro di me da tanto e tanto tempo. A un certo punto mi sono chiesto se non valesse la pena di riprenderlo in mano, e così mi è capitato di farne una nuova edizione, come faccio ultimamente, libretti che magari stampo in proprio, in maniera tale che posso lasciarli a disposizione di chi desidera alla fine degli incontri o delle testimonianze, e sono molto più fruibili e accessibili magari di quelli che si possono cercare a volte con fatica in libreria. E mi dicevo, chissà se avrà senso, ecco, riproporre ancora una volta questo tema, ma qualcuno mi chiedeva il libretto, dico ma perché no? E poi cosa è successo? Che ho cominciato a ripensare di proporlo a Radio Maria, perché mi sono detto, sono passati 5 anni, perché no? E io stesso mi sono posto un'obiezione, e questo, cari amici, è interessante dirlo, perché poi la maggior parte delle cose che condivido nascono proprio dalle vostre sollecitazioni, dalle domande che mi fate, dalle lettere che mi scrivete, dalle email che ricevo. Mi sono chiesto se fosse per caso un doppione. In fondo il libro è sostanzialmente lo stesso. È vero, mi sono detto, il libro potrebbe essere quasi lo stesso. Ho cambiato alcune cose, ho inserito qualche testo, ma sostanzialmente lo stesso. Ma io no. Nel momento in cui lo leggo io, questo libro è diverso per me. Nel momento in cui lo propongo io, ci saranno accenti diversi. Ma non solo. Sono cambiato io, ma siete cambiati anche voi, cari amici. Al di là del fatto che la grande famiglia di Radio Maria si estende continuamente, per cui posso pensare che all'ascolto ci sia qualcuno che non ascoltava magari questa trasmissione 5 anni fa, però anche voi non siete più gli stessi. E potreste chiedervi, come fai, Diego, a dire che non siamo più gli stessi? Chi è che ti dà questa sicurezza? Beh, 2 ragioni. La prima è che si cambia. Chi vive cambia, chi vive cresce, chi vive si modifica. Chi vive fa tesoro delle esperienze, degli incontri, di tutto quello che si vive, che si legge, che si scopre dentro di sé, negli altri, nella preghiera, nelle circostanze quotidiane. ma dall'altra parte siamo anche in un contesto in questo momento, quello della pandemia da coronavirus, che ha inevitabilmente cambiato o poco o tanto la vita di tutti noi. Cosa mi sono accorto? Che nel mare di notizie che si possono trovare sui social, su internet, sui giornali, alla televisione, ogni giorno è come se stessimo sempre più familiarizzando con la morte. È un po' come se questo tema della morte fosse entrato volenti o nolenti in casa di tutti, con un grave rischio però, Il rischio di, da una parte, assuefarsi, abituarsi a questo tema. Abbiamo magari corso in maniera così compulsiva alle varie testate dei giornali i primi giorni, cercando i bollettini per capire quanti sono i morti, quanti sono i contagiati, e forse abbiamo rischiato, anche noi che pensiamo di avere un cammino di fede alle spalle, una certa sensibilità, ripeto, abbiamo rischiato forse quasi di abituarci alla morte come di un bollettino, come di una guerra che stiamo combattendo contro una realtà metafisica, estranea alla nostra vita di ogni giorno, che si vince o si perde in base ai numeri, quanti sono morti oggi. Dall'altra parte, chi è stato toccato, e sono molti di noi, direttamente da questa pandemia, perché ha visto morire persone care, ha perso qualche parente, qualche familiare, qualche amico, si è accorto immediatamente che la morte è entrata nella sua vita con una concretezza che non avevano quei numeri, quelle notizie. Improvvisamente il problema non era non posso andare a fare la passeggiata al parco come vorrei. Il problema non era non posso andare al mare a farmi il fine settimana in montagna. Il problema era la morte è entrata con una prepotenza che prima non aveva. Allora capite che si tratta dello sguardo che dobbiamo avere su questa realtà. O ci lasciamo guidare da quello che è il mainstream della comunicazione, per cui nel nome della scienza, della tecnica e del potere dell'uomo controlleremo anche questo problema. Non preoccupatevi, basterà avere alcune soluzioni, magari di tipo tecnico, scientifico, medico, ma è come se uno si illudesse quando avremo trovato il virus il problema sarà risolto. No, perché si continua a morire. Perché tu, che in questo momento sei all'ascolto e che hai le tue esperienze, le tue ferite, le tue attese, i tuoi desideri, per quanti progetti belli possa avere nella vita, hai comunque una spada di Damocle che è proprio quella della tua morte, che è molto più problematica, urgente, viva, vera della morte di chiunque altro, anche le persone che più hai vicino. Ecco, questo cambiamento di scenario così forte, così radicale, mi ha convinto che forse potevo dare il mio contributo, oltre con le catechesi che faccio sul mio canale YouTube, le testimonianze che cerco di dare tramite Facebook, tutte le varie videochiamate con studenti, gruppi di giovani, di adulti. Ci sono tantissime strade che tutti voi avete sperimentato per rimanere in contatto, in comunicazione, nonostante la quarantena imposta dalla pandemia. Ma non mi sembrava sufficiente. Allora ho voluto tentare di rimettere in gioco questo percorso, cercando di andare oltre la morte, in quella eternità di vita beata e felice che si spalanca, non parlando soltanto ai credenti, perché in realtà nel sottotitolo ho messo un'intenzione di allora, ma che ritengo molto vera anche adesso, la vita eterna spiegata a chi cerca. Intanto parlo di una spiegazione, cerchiamo di usare la testa, cerchiamo di interrogarci, non è soltanto un sentire, un credere. Se fosse soltanto un credere, posso parlare con chi già crede. E chi non crede mi direbbe, guarda, non fa per me. E chi già crede si trova uno strumento importantissimo, a parer mio, dal collezionare delle ragioni utili per credere che la morte non è l'ultima parola. Perché vengono i momenti in cui la fede vacilla. Ho sentito testimonianze di amici abituati a lavorare nei reparti di ospedale, abituati a vedere la morte, sconvolti dalla esponenziale crescita di decessi in questo tempo di pandemia. Interi reparti di ospedali che sono diventati immediatamente dei reparti di terapia intensiva, con situazioni inimmaginabili per chi sente soltanto qualche notizia da fuori. Persone sconvolte, persone che mi hanno detto la mia fede vacilla, perché il male sembra poter prevalere. Ce l'ha detto la regina della pace a Medjugorje, Satana vuol fare in modo che mio figlio non vi paia forte nelle sue decisioni. Voi credete che ormai stia prendendo il sopravvento, e poi però ci ricorda anche che l'amore trionferà. E Dio è amore. La vittoria è di Dio. La vittoria è della vita. E per quello che dobbiamo tirare, ecco, questa cappa di tristezza, di disperazione che sta scendendo sull'uomo, soprattutto in questo tempo di pandemia, ricordandoci che siamo fatti per il cielo e per la vita eterna. Ma per fare questo servono ragioni adeguate, perché le cose che sappiamo tornano utilissime quando siamo in un momento di dubbio, quando le nostre convinzioni vacillano. E non potremmo neanche limitarci a dare retta a quello che sentiamo, perché come sa chi mi conosce, non smetto di dire, soprattutto ai più giovani, non fidatevi del sentire, perché le emozioni vanno e vengono. E come in amore non ci si può fidare di quello che è un sentimentalismo che nasce e muore come un fuoco di paglia, ma bisogna cominciare a conoscersi reciprocamente e sapersi amare prima di sentirsi semplicemente amati, anche in questo caso dico che il sentire è pericoloso, perché le tue emozioni, caro amico, le tue impressioni, le tue percezioni variano come varia il clima della giornata, e se ti svegli con la luna storta, ecco che quello che ti sembrava così bello, bello non è più, e le tue certezze vacillano ancora una volta. Allora sentimenti e fede vanno rafforzati, con delle ragioni adeguate. Quindi per noi stessi, per noi che diciamo di credere, quanto è importante saper, come diceva anche l'Apostolo, rendere ragione della nostra speranza, a noi stessi per primi nei momenti della difficoltà, poi anche per gli altri. Tutti siamo impegnati, io credo, ad accogliere l'appello della Madonna che ci chiede di essere i suoi apostoli dell'amore, le sue mani tese verso coloro che sono lontani, e come facciamo a raggiungere gli altri? Non possiamo certo partire dal Vangelo. Dobbiamo partire da un Vangelo vissuto, non annunciato a parole, ma quando ci approcciamo agli altri dobbiamo sapere che sono persone razionali, che hanno bisogno di argomenti, di buone ragioni. Allora, quello che ho cercato di fare è proprio di toccare il tema della vita eterna con una prospettiva di ragionevolezza, non di razionalismo, perché non sono cose che si possono pesare con la bilancia o misurare con un righello, non c'è una tavola pitagorica che fa tornare i conti di fronte a questi misteri, ma ci sono indizi di ragionevolezza. E questi vanno presentati per noi e per gli altri. Il tema è la vita eterna spiegata a chi cerca. Guarda, se non sei interessato a questo tema, non fa per te. Se pensi che tanto quello che conta è quello che c'è qui e il resto pazienza, non fa per te. Se non sei in ricerca, se presumi di sapere già, in realtà forse stai ignorando la complessità della questione. Qui ci viene utile Socrate. Socrate diceva ai suoi contemporanei ad Atene, siamo nell'Atene del V secolo a.C., guardate che io posso parere il più sapiente perché in realtà so di essere ignorante. Questa frase non ha smesso di essere vera neanche oggi. La vera sapienza è in colui che si riconosce ignorante, come fatemi dire la vera santità è in colui che si riconosce peccatore. Chi dice io non pecco mai è sicuramente un gran peccatore, però non sa neanche di esserlo. È come il malato che dice sto benissimo e poi muore. Ecco, noi dobbiamo avere l'accortezza di sentirci persone in ricerca, di avere domande aperte, di sapere che è un mistero che non si può esaurire e che, al di là delle cose che io cercherò di condividere con voi, cari amici, cercando poi attraverso le domande a fine trasmissione, ma anche le email, le lettere, qualunque tipo di vostra sollecitazione, cercando di aprire un dialogo anzitutto, sapere che questo mistero non lo si esaurisce come si impara qualche cosa attraverso una regola facile, una ricetta delle istruzioni. Non stiamo montando, ecco, un modellino e bastano le istruzioni e verrà tutto bene. Il problema è qui di andare oltre il semplice capire. Si tratta di capire ma poi di vivere, è un mistero. E per questo mistero serve una luce grande che è la luce della preghiera. Allora è bello quando so di cominciare questa trasmissione che è tardi, però so che c'è stata la compieta, abbiamo pregato, abbiamo una giornata di preghiera sulle nostre spalle, dico meno male, arriviamo con la luce, magari la stanchezza, ma quella luce che ci permetterà di ricevere la parola che ci serve. E allora comincio proprio introducendo un po' quella nota al lettore che credo rimanga sempre attuale. Presento questo libro un po' come il libro della mia vita, e può sembrare strano parlare di un libro della vita quando è un libro che in realtà parla anche della morte, e però non credo ci siano parole migliori per dire ciò che questo libro è. E dico che è il libro della mia vita perché, come vedremo leggendolo insieme, non si fonda tanto su studi o citazioni, sulle letture che posso aver fatto, anche sugli studi, perché 5 anni fa non avevo ancora preso la laurea magistrale in scienze religiose, non avevo ancora preso il baccellierato in teologia all'Angelicum a Roma. Gli studi sono andati avanti, ma se devo dire la verità, è anzitutto l'esperienza vissuta alla luce di questi studi che posso condividere. Un'esperienza che è la mia, ma non solo la mia, perché grazie a Dio nel corso di tutti questi anni ho incontrato tante persone che sono diventate un po' il serbatoio, ecco, di esperienze, di aneddoti, di insegnamenti di vita che ho potuto accogliere attraverso domande, racconti e condivisioni, e attraverso tutto questo tesoro, questo bagaglio di umanità, ho potuto riscontrare in ogni caso, quale che fosse la storia dell'individuo, l'età, la professione, l'appartenenza, la religione, la cultura, ho capito che il cuore dell'uomo anela all'infinito, a quell'infinito da cui proviene, di cui è costituito e per cui è fatto. E qui so che i miei studenti direbbero subito: ma queste sono le domande della filosofia delle origini. Da dove viene il tutto, di che cosa è fatto, per che cosa è fatto? Ecco, queste tre domande che i filosofi dell'antichità si ponevano sulla realtà tutta e sull'uomo, ce le dobbiamo porre anche noi. Sono le domande di senso. Da dove vengo? E non ci basta saper che vengo dai miei genitori. Certo, è fondamentale, sapere la mia origine biologica. Sapete che quando si incontrano ragazzi adottati che non sono riusciti a scoprire la loro origine biologica, per quanto possono considerare, come si può dire, determinante l'amore ricevuto da quelli che considerano il papà e la mamma, è come se rimanesse sempre una finestra aperta, un interrogativo, un bisogno di sapere, come se mancasse quella radice che spiega bene l'albero da cui stanno provenendo, da cui stanno ricevendo la linfa, la vita e ciò che li costituisce, perché portiamo inevitabilmente qualcosa dei nostri genitori dentro di noi. Ma c'è un di più: non posso pensare di venire solo dai miei genitori, perché io mi scopro con una personalità, un carattere, dei talenti, dei desideri, dei gusti, e se non sono un determinista, per cui dico tutto quello che sono è il frutto della interazione dell'ambiente sociale, familiare, culturale, scolastico su di me, se non sono un determinista, so che certe cose è come se fossero stati doni indipendenti dal mio ambiente, non sono semplicemente il prodotto della somma di tante influenze, non sono nato come una scatola vuota. Quando i ragazzi vengono a chiedermi, prof, ma come faccio a sapere cosa devo fare nella vita? Guardati dentro, ma non soltanto alla ricerca della tua storia, dire vediamo cosa mi hanno messo dentro gli altri, la vita, gli incontri, le esperienze, l'educazione, anche la fede, no, non solo quello, tu sei partito con una dotazione. È come se ci fosse un seme dentro di te, che è una chiamata alla santità, ma anche a una vocazione particolare, che quel talento che tu puoi aver esercitato, la vita te lo fa scoprire, te lo fa esercitare, te lo fa ampliare, te lo fa emergere, te lo fa impiegare bene, ma Dio te l'ha donato. E allora uno deve guardarsi dentro e dire, ma io da dove vengo? E allora ti chiedi di che cosa sei fatto. Sono fatto semplicemente di carne, sangue, ossa e nervi? Il mio unico problema è avere gli esami del sangue in ordine? Avere la glicemia a posto? È soltanto questo il tuo problema? O non conosci un sacco di persone che, scoppiando di salute, han deciso però di togliersi la vita perché nulla gli bastava? E poi devo sapere anche dove vado, perché soprattutto in questo tempo, in cui la morte diventa una compagna quotidiana di cammino, è evidente che devo sapere ciò per cui sono fatto. Finisco semplicemente sottoterra, divento cibo per i vermi, divento un nome su una lapide, divento una faccia sbiadita in una foto, o continuo ad esistere, come sento di desiderare. Ecco, questa è un po' l'esperienza che io ho vissuto, questa esperienza del cuore umano che è fatto per l'infinito, e l'ho vissuta attraverso incontrando le tante sfaccettature di umanità che ho osservato e conosciuto fin qui. E ovviamente continuando a girare in Italia per i miei incontri, ad avere colloqui, dialoghi, è ovvio che questo bagaglio di esperienze è andato accrescendosi, eh? È un circolo virtuoso. A volte scherzo un po', no? Quando qualcuno mi dice: ma come fai ad avere sempre qualcosa di nuovo da raccontare? Guarda, vado a scuola, ne sento abbastanza da raccontare alla sera quando vado a fare gli incontri. Alla sera faccio gli incontri in questa parrocchia, in quella città, in quell'associazione, ne sento altre, le racconto al mattino dopo i miei studenti, e quindi si continua a girare, no? E allora diventa interessante, perché poi tu dici: ma scusa, ma quando racconti una storia particolare, ma mica la gente ti sta a ascoltare? Sempre. Perché ovviamente una volta che uno ripulisce di tutti quei particolari che possono rendere riconoscibili le persone, rimane, come si può dire, una storia talmente specifica e concreta che ti desta interesse. Non basta dire: guardate che nella vita si può risorgere, ti devo raccontare la storia di quel ragazzo che ha rischiato di andare in galera perché ha tentato di uccidere suo padre, perché si era reso conto che era la presenza più distruttiva nella sua vita, che è scampato alla galera per una serie di avventure incredibili e che dopo l'incontro con la fede è ritornato a casa, si è costituito, ha chiesto perdono al padre. Quando c'è questa storia concreta, tu ti senti sollecitato a seguirla. E cosa capita? Che in quella concretezza vedi qualcosa di tuo, perché quella storia particolare dice qualcosa anche dell'umano che è in te. E allora quando condivido questi episodi, capiterà anche in questo libro, per chi l'ha già letto, per chi lo conosce, sentirete di episodi particolari, poi anche di esperienze mie personali, che però dicono qualcosa di voi, perché sono esperienze umane. E posso dire che Oltre, come titolo, dice anche che il nostro cuore vuole andare continuamente oltre ai limiti che la vita sembra porgli, soprattutto oltre quel limite estremo, quel limite che inesorabile attende tutti al termine dell'esistenza, che è appunto la morte. La morte terrena che incombe ineluttabilmente su ciascuno di noi, eppure al di là di tutte le autorassicurazioni con cui l'uomo contemporaneo tenta sempre più di censurare la questione si ripropone. Oggi si cerca di non parlarne, di parlarne come di un fatto naturale, come di un problema di numeri, lo dicevo prima, come di un problema che tanto poi lo si risolverà, eh. Cioè, chi non crede ai miracoli perché dice che i miracoli non esistono ma sono semplicemente qualcosa che ancora la scienza non sa spiegare, ti viene a dire: guarda che la morte è un problema che tanto prima o poi si risolverà. Oggi mica la vita media è come era 1000 anni fa e non te ne rendi conto, ma guarda, la vita media oggi è il doppio di 1000 anni fa soltanto perché 1000 anni fa morivano i bambini decimati dalle malattie. Ma guarda che già nei Salmi, che sono scritti 1000 anni prima di Cristo, si dice una grande verità: gli anni dell'uomo sono 70-80 per i più robusti, aggiungine 4-5 in più, ma la vita dell'uomo anziano è quella lì, lo era 3000 anni fa, lo è oggi. Il problema è che tu puoi anche allungare la vita con le vitamine di qualche anno, e poi... Umberto Veronesi diceva: arriveremo al punto in cui si vivrà 140 anni almeno. Io mi chiedo: sì, ma poi tanto la morte arriva. E anche se tu lo guardi come un problema naturale, in realtà è una fine che incombe su una serie di progetti, iniziative a cui tieni enormemente, perché è la tua vita. La vita tua, ma anche delle persone che tu stai amando. E la morte arriva e in un secondo annulla tutti i tuoi progetti, sogni, desideri, e sembra che inghiotta nel nulla tutto il tuo vissuto. Allora sarebbe così, come dire, è come se ci ostinassimo a vivere sapendo che dobbiamo morire. Questa sembra una follia. Se tanto sai che devi morire, cioè immaginate, scusate, usiamo la metafora scolastica, se tanto sai che ti bocciano, cosa studi a fare? Se tanto sai che questa cosa finisce, cosa la incominci? È perché nel nostro cuore c'è qualcosa che dice: no, ma non può essere tutto qui. noi ci ostiniamo a vivere, a cercare di vivere in pienezza, perché non possiamo fare a meno di chiederci cosa c'è oltre la morte, cosa c'è oltre quella fine terrena che non può essere la conclusione di tutto. E quando dico non può essere la conclusione di tutto, intendo dire qualcosa che desidero dentro di me, che sento ma che posso anche capire. E allora qui dico, è importante porsi alcune domande su questo tema. Io non voglio dire che questo è un libro che dà delle risposte, questo è un libro che forse racconta la risposta che ho incontrato io, che è un'esperienza, che è qualcosa che vivo ogni momento, ma almeno cerco di aiutare a porre quelle domande che mi hanno aiutato nel cammino, che sono le domande poi dell'uomo di sempre. Cerco di partire dagli interrogativi che mi rivolgono i miei studenti a scuola e che sono sempre più frequenti in questo tempo in cui si fa la didattica a distanza, in cui ci vediamo dietro uno schermo, ma tanti di questi ragazzi che rimangono soli, isolati in casa, isolati dietro un computer, poi cercano un modo per contattarmi, per raggiungermi, per chiedermi, prof, ma qual è il senso di tutto questo? Poi ci sono i colleghi che posso incontrare nel mondo della scuola o nel mondo dell'editoria che continuo ancora a frequentare, ecco, molto meno di 5 anni fa, adesso mi dedico molto di più alla scrittura, non faccio più l'editor e tuttavia quanti contatti, quanti rapporti belli ho mantenuto di persone perlomeno curiose sulla vita. Oppure ancora ci sono le persone che accompagno in pellegrinaggio a Medjugorje, quelle che vedo dopo gli incontri magari di preghiera, o che vado a trovare quando passo di casa in casa, di famiglia in famiglia, o anche semplicemente quando mi capita di incontrare persone sconosciute e quasi per caso, ma non credo nelle coincidenze ma nelle dioincidenze, quando sei in fila al supermercato oppure dal dottore, no? Ecco, allora questo possiamo dire che è un po' il libro della mia vita ed è un po' anche il libro delle domande che ho incontrato nel cammino della mia vita, che ho messo a poco, a cui ho cominciato a rispondere, no? Poi le risposte diventano anche nuove domande, ma non è che rimaniamo dei filosofi che si interrogano per il gusto di fargli intellettuali, eh? A un certo punto si arrivano anche a trovare delle risposte, ma poi, come si può dire, è un libro che nasce dalla vita, eh? Chi mi conosce sa benissimo l'esperienza che c'è dietro a questo libro, che è l'esperienza di aver perso persone care, dalla cerchia familiare in primis, e qui mi riferisco a mio fratello gemello Gianluca, che ho perso in un incidente di moto quando aveva quasi 24 anni, e poi tante persone che ho visto morire nella mia vita in momenti diversi, dove la morte era sempre la stessa, ma diversa per me, che avevo occhi di volta in volta forse un pochino più trasparenti, più capaci di guardare quello che veramente capitava. E allora adesso è un po' come se cominciassimo un altro pezzo di questo nostro cammino, cari amici, ai nuovi, ai vecchi amici, ai fedelissimi, a quelli che magari per caso sono arrivati a sintonizzarsi su Radio Maria, io dico, dobbiamo fare un po' una sorta di patto di corresponsabilità, come si dice oggi. Io chiedo da parte vostra, ecco, proprio l'impegno di accogliere come autentico tutto quello che sentirete, perché nasce da una verità di esperienza, e vi chiedo anche di accoglierlo col massimo rispetto, sapendo che non sono semplicemente pagine con dell'inchiostro riversato sopra, ma è un pezzo di vita. E di mio cercherò di mettere il massimo impegno possibile per condividere tutto quello che ho ricevuto e che devo trasmettere a mia volta, a partire dal fatto che c'è una certezza che sorreggerà un po' tutto questo cammino. Sono convinto che la morte non sia l'ultima parola e sono convinto che l'unica risposta è Gesù Cristo. Non è una teoria, non è un insegnamento, non è un autoconvincimento positivo, ma è una persona che si è presentata, come ci ricorda il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, versetto 25, presentata dicendosi: io sono la resurrezione e la vita. Tutte le domande che noi ci poniamo sulla vita e sulla morte potranno trovare corrisposta solo a partire da questo approccio, da questa persona. Le fonti, solo per dare un'indicazione di metodo prima di entrare nel vivo, le fonti sono quelle che, insomma, presentano le ricerche teologiche tradizionali, quindi la scrittura, la sacra tradizione, ovviamente il magistero della Chiesa, l'insegnamento dei padri e dei dottori della Chiesa, la liturgia, la prassi ecclesiastica, però anche la vita dei santi e le opinioni teologiche. È chiaro che ho cercato di mantenere il livello dialogico il più semplice possibile, perché mi interessa arrivare alle persone più semplici, e ho sempre detto che tutti gli studi che ho fatto servono perché la gente non debba studiare così tanto, e tutti i libri che ho letto è perché la gente non debba leggerne, ma riesca, ecco, a raggiungere un po' quella spremitura del succo buono che spetta a chi magari ha avuto così un po' il compito di percorrere queste strade di approfondimento. E poi devo anche dire però che troverete tanti riferimenti ai messaggi di Medjugorje. Qui, come sempre, l'intendimento non è di anticipare il giudizio definitivo della Chiesa, ci mancherebbe. Da figlio obbediente aspetto il giudizio definitivo sulla soprannaturalità di queste apparizioni che dal 1981 vengono appunto segnalate, no? da Medjugorje in Bosnia e Erzegovina, ex Jugoslavia. Però non nascondo il fatto che io personalmente sono convinto della veridicità di queste apparizioni, e come tali condividerò anche i messaggi della Regina della Pace come utili conferme di quanto troviamo, ecco, nel nostro cammino. Allora arriviamo proprio a introdurre il tema parlando del prima della morte. Prima della morte ovviamente ha una doppia valenza, vuol dire parlare della vita, ma anche interrogarsi sulla morte prima della morte. Alcune domande bisogna porsele prima che sia tardi. Ogni volta che mi capita di accompagnare qualcuno che vive il lutto perché ha perso una persona cara, molto vicina, mi sorprende quanto sovente le grandi domande sono state messe da parte. Anche in persone di fede, anche in persone che hanno un cammino nella Chiesa, magari catechismo, oratorio, parrocchia, le domande non sono state affrontate, e quindi uno si trova lì smarrito e si interroga: ma davvero c'è quello in cui mi hanno detto di credere? Ma davvero c'è questa vita eterna? Davvero non è tutto finito? E capite che queste domande, se si affrontano per la prima volta solo e soltanto quando si è schiacciati dalla tristezza, a volte dalla disperazione di un lutto, di una perdita grave, sono difficili. È molto meglio interrogarsi prima, per non soltanto avere un paracadute nel caso di questi drammi, no, ma se tu capisci il senso della morte, scopri qualcosa di grande sulla tua vita. E comincio citando il Salmo 89, che già ho ricordato poc'anzi, versetti 10 e 12. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco qui, cari amici, il problema è di diventare sapienti. Qui dobbiamo chiedere a Dio la grazia di imparare a contare i nostri giorni. Attenti bene, non significa che vado dal cartomante e mi faccio dire quanto a lungo vivrò. Questi sono peccati di irreligione, sono peccati gravi. Non ti interessa sapere il giorno e l'ora della tua morte, perché quella è, come si può dire, l'evento scatologico della tua vita. E devi lasciarlo nella scienza di Dio. Solo Lui conosce i tuoi giorni. Ma contare i nostri giorni significa fare tesoro dei tuoi giorni che sono contati, come i capelli del tuo capo, perché Dio ci pensa. E visto che tanto sai che 70-80 sono quelli per i più robusti, che la fatica non manca e la morte improvvisa, forse è meglio che tu impari a contarli, cioè a vivere sapendo che la vita è qualcosa di fragile, che va custodito. Io so che dopo questa, che è un'ampia introduzione, ma in realtà ha dato già degli stimoli a sufficienza, dopo mezz'ora che parliamo della morte e dintorni, in un momento difficile come quello della pandemia, lo ripeto, dove io spero abbiate capito che forse la delicatezza più grande nei confronti di quelli che stanno soffrendo non è far finta che non ci sia il problema. Io spero che nessuno interpreti come una mancanza di tatto o di carità quello che sto facendo, ma come già la viviamo tutti i giorni, non abbiamo soltanto il problema delle bollette, delle fatiche, dei mali quotidiani, ma di questa pandemia che ci fa toccare con mano la morte ogni giorno, perché doverne anche parlare? Ed è sempre stata un po' l'obiezione che mi sono fatto io da solo, quando affrontavo questi temi, anche in giro, nelle varie catechesi e testimonianze, perché occuparsi della morte quando la vita ha già i suoi problemi? Non sarebbe meglio occuparsi delle questioni della vita e soltanto dopo eventualmente della morte, che tanto è così lontana, così? Sono obiezioni comprensibili, ma celano in sé proprio la risposta del perché sia utile e anzi necessario interessarsi alla morte, oltre che alla vita dell'uomo. La vita porta un sacco di preoccupazioni con sé. Anche il salmista, 1000 anni prima di Gesù, diceva: quasi tutti gli anni della fatica sono, gli anni dell'uomo, scusate, sono fatica e dolore. Se la vita porta con sé tutte queste difficoltà, allora possiamo dire che la vita è veramente un cammino difficile e impervio. Verso che cosa? Dove va questo cammino? Beh, va verso la morte. I fatti dicono questo, che tutti gli uomini muoiono. E se la vita è destinata a terminare con la morte, solo interrogandosi sulla morte si può sperare di dare una risposta ai 1000 interrogativi sulla vita. Perché il dolore? Perché la malattia? Perché la fatica? Perché il male? Tutte queste domande che ci siamo posti, possiamo far finta di ignorarle perché vogliamo sembrare quelli pragmatici e concreti che ragionano soltanto in base a conti correnti, successi lavorativi e conquiste sentimentali, ma in realtà l'esperienza della malattia, della fatica, del dolore e del male l'abbiamo fatta, e questa esperienza ha fatto nascere in noi una domanda, poi magari l'abbiamo censurata e l'abbiamo messa da parte, ma questa domanda è nata. E dietro a queste domande ci sta l'interrogativo più radicale: perché la morte? Ora, se paragoniamo la vita a un cammino, e ovviamente non è una metafora mia, ma è cara a scrittori, poeti, filosofi e pensatori nel corso dei secoli, allora la morte è la fine di questo cammino, oppure, se non è l'ultima parola, il fine, come uno scopo, come se questa esistenza terrena fosse una tappa che si compie nella morte per aprirsi ad altro. È una meta, la morte, che in modo retrospettivo, come girandosi indietro, illumina il valore, la consistenza del cammino che percorri. Cioè, capisci il valore della tua vita capendo che cos'è la morte, perché è la fine. È un po' come se io dicessi a un amico: guarda, vieni, accompagnami, andiamo a attraversare il deserto. E com'è? Arido, assolato, ci troveremo abbondanza di serpenti e scorpioni, la sabbia sarà rovente, non avremo un goccio d'acqua, non ci sono oasi, non ci sono guide, non ci sono cammelli, ma figurati se questo accetta. Ma se io gli dicessi: vieni con me nel deserto, perché alla fine troverai il tesoro prezioso che stai cercando da una vita, allora saprebbe che ne vale la pena. Allora, quando ci apprestiamo a compiere il cammino della vita, dobbiamo interrogarci su questa meta, sulla sua fine, che potrebbe anche essere il suo fine, il suo scopo, non come uno scopo ultimo, ma come uno scopo intermedio. Lo scopo della mia vita è arrivare a quella tappa che è finale soltanto di una tappa della mia esistenza, perché io sono fatto per l'eternità, come dice il libro di Chiara Corbella, bellissimo, sulla vita di questa grande e giovane testimonianza di santità, ordinaria e straordinaria: siamo nati e non moriremo mai più, perché la tua anima non muore, è soltanto il tuo corpo che passa questa esperienza. E allora uno potrebbe dire: va bene, dobbiamo interrogarci sulla morte perché questo ci aiuterà a rispondere agli interrogativi più radicali sulla vita stessa, ma il pensiero della morte ci rattrista. Perché pensare a queste cose tristi quando uno potrebbe godere della vita? Certo, la vita non è fatta soltanto di dolore, non è soltanto sofferenza, non è soltanto malattia, ovvio che no. La vita è anche gioia, è anche piacere, anche serenità, è amore. Chi può negare che la vita è come una medaglia a due facce? E chi può dire proprio che patiamo e facciamo fatica quando siamo nella malattia, nella sofferenza, nel dolore, non solo perché il nostro cuore desidera altro, ma perché abbiamo fatto anche esperienza di altro. Soprattutto quando si è giovani, in piena salute, si ha tutta la vita davanti, uno si sente padrone del mondo, capace di realizzare qualunque impresa, di affermarsi contro qualsiasi destino avverso, non si conoscono ancora i limiti della vita umana. E allora uno vuole godere soltanto di quello che pare l'essenza della vita. E proprio perché magari si intuisce all'opposto che la giovinezza sta scorrendo via, e uno osserva che gli anziani a poco declinano, viene meno la vitalità, l'energia, la gioia, allora uno potrebbe dire invece, ho capito che non starò sempre così, quindi voglio godere di ogni istante, no? Il famoso carpe diem. Cito un versetto famosissimo di Lorenzo il Magnifico, questa mente eclettica della famiglia, della dinastia fiorentina dei Medici, che nella seconda metà del 400 scriveva: «Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia». È bella la giovinezza, però scivola via, scorre, no? «Del diman non v'è certezza, chi vuole essere lieto sia». Come dire, tanto la giovinezza passa, il domani è pieno di domande e di incertezze, è meglio che uno intanto si goda la vita. Ma è un po' una frase dal tono agrodolce, no? Perché, come dire, visto che la vita è breve, meglio non farsi turbare da cattivi pensieri e goditi la vita. E tuttavia il tentativo di non farsi turbare dai cattivi pensieri non è la soluzione. Non è la soluzione perché, come ci ricorda il filosofo e matematico francese Pascal, intorno alla metà del 600, gli uomini, non avendo alcun rimedio contro la morte, hanno stabilito, per essere felici, di non pensarci mai. E certo, allora Pascal ci dice, visto che l'uomo non sa affrontare il problema, si volta dall'altra parte, parla del divertimento, nel senso latino del divertere, il voltarsi dall'altra parte, e come il tentativo di ignorare le nostre miserie, e arriva nei pensieri a scrivere ancora lo stesso filosofo Pascal: l'unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, perché quando ti diverti non ci pensi, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. Perché dice così Pascal? Perché dice: è vano cercare di fuggire le grandi domande voltandosi dall'altra parte, non è una scelta ragionevole. C'è come se tu ti trovassi in autostrada ai 180 all'ora e anziché, non so, chiederti se i freni funzionano bene, ti concentrassi nel cercare di sintonizzarti sulla tua radio preferita. O è come se tu ti svegli su un treno in corsa e prima di chiederti dove sono, dove sto andando, vedi se è comodo il sedile su cui sei appoggiato, se ti danno una bibita, com'è il tuo compagno di viaggio, che paesaggio si vede. È chiaro che uno deve interrogarsi. È ragionevole affrontare il problema piuttosto che ignorare la questione. E qui mi fermo, cari amici, con questo richiamo alla ragionevolezza. Anche se può essere una domanda scomoda, anche se in questo tempo di pandemia e di lutto c'è una tristezza di fondo che ci farebbe sentire tentati di parlare d'altro, la cosa più ragionevole è interrogarsi, perché non sia stato inutile, cari amici, anche vivere questo tempo di prova. Ecco, io per adesso mi fermerei così, ci lasciamo con una breve pausa musicale, poi alle vostre domande in diretta, come sempre vi chiedo che siano brevi e in tema con quanto presentato. A più tardi. Pronto? Ciao, pronto, sono Francesco. Sì, sì. Benvenuto, sono da dove chiami? Da Catanzaro. Niente, io ho ascoltato l'ultimo tratto perché ho scrutato la parola, stasera io faccio parte del canone catecumenale, vedo come il Signore parla, no? Attraverso le scrutate, la sua parola, che poi in fondo è Lui che è la via, come dice il Vangelo, no? In fondo. E quello che, il fatto della tristezza, secondo me è un il demonio come lavora, no? Sotto questo aspetto, per scoraggiarci, per renderci un po' tristi, ma il Signore è risorto questo tempo fino alla Pentecoste, vediamo come è importante annunciare anche agli altri, no? Quelli che sono lontani, come diceva lei, questo dell'alcol, io ho capito con un mio amico che poverino beve, fuma, gli ho detto: guarda, ho regalato una croce che ho messo per la settimana santa davanti a casa mia, poi ho dovuto toglierla perché non era il caso di lasciarla lì, perché uno che è passato mi ha detto: adesso è passato la settimana santa, è iniziata la resurrezione e devi toglierla. Io ho obbedito a questo che mi ha detto questa persona e l'ho regalata a sto ragazzo che convive con un'altra ragazza. Però in fondo lui, quando mi messaggiamo così, mi dice sempre: Franco, segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Cioè, ho un motivo per annunciare l'amore di Dio agli altri. Poi il Signore lavorerà come sa lui. Grazie. Grazie, grazie Francesco per questo intervento. È vero che è proprio un annuncio che ci sentiamo impegnati a dare. E anche semplicemente nel dire: guarda che ti regalo questa croce, anche in realtà sapendo che non è mai l'ultima parola questa croce, noi cristiani portiamo la croce a un segno di novità che Gesù ha donato alla croce stessa, perché non è più l'ultima parola la croce, ma è quel trampolino che lancia nella vita eterna. E non finisce il venerdì pomeriggio la parabola di Gesù, ma al suo compimento nella domenica mattina, è il mattino della Pasqua quello che ci dà questa speranza. Allora è proprio vero che mentre andiamo ad affrontare questi interrogativi così profondi, ci accorgiamo che l'unico modo per affrontare questioni così decisive è nell'annuncio di una prospettiva di speranza. E certo, magari non possiamo partire dal Vangelo con chi non vuole sentirne parlare, o non possiamo subito annunciare a Gesù a chi ha le orecchie un po' chiuse, però possiamo dire: ma non ti interessa conoscere se c'è una strada che va al di là di questo muro contro ti credi destinato a sfracellarti. Non ti interessa sapere se c'è una chiave che apre quella porta che alla fine della vita ti sembra chiusa, oppure aperta sul nulla. Non ti interessa conoscere una speranza, perché questa speranza si è fatta carne. Sicuramente per noi che cerchiamo di portare un annuncio di vita in un mondo che ormai è un mondo mortifero per la cultura di morte che serpeggia per ogni dove, l'unica forza che può sostenerci, ma non sarà mai la fiducia nei nostri poveri mezzi umani, ma solo in questo annuncio di resurrezione che ci viene da Gesù. E quindi ben venga ricordarsi l'unica vera ragione che sostiene anche questo impegno missionario, che poi dico, proprio ribadendo quanto ha ricordato anche Francesco, nella scrittura, ecco, trova tante tante ragioni e tanti sostegni. Noi ci nutriamo della scrittura e poi cerchiamo di annunciare, come Dio ci permette, questa parola di vita a quanti incontriamo. Bene, cari amici, il tempo a nostra disposizione purtroppo termina, e passa veloce la vita, passa veloce anche l'ora che possiamo condividere insieme. Voglio ringraziarvi tutti per gli interventi, quelli che avete fatto in diretta, ma anche quelli che fate scrivendomi o attraverso il canale YouTube o Facebook oppure l'email. In modo particolare voglio chiedervi di ricordare nella preghiera tutte le persone che stanno vivendo questo momento di particolare fatica. Voglio chiedervi di pregare per tutte le persone che sono malate, per tutte le persone che hanno perso familiari, parenti, amici a causa di questa pandemia. Accompagniamo con la preghiera tutti coloro che si stanno dando da fare per aiutare il prossimo, operatori sanitari, medici, assistenti, coloro che lavorano nel sociale nel senso più ampio del termine, ma anche coloro che fanno lavori necessari e non hanno potuto magari sottrarsi neanche un giorno ai loro doveri. Preghiamo anche per tutti quei sacerdoti che hanno saputo stare vicino ai fedeli in questo tempo così difficile, di forti limitazioni, di grande povertà dal punto di vista della vita sacramentale, una prova difficile, ma che sicuramente ci vedrà uscire con una fede più forte. E poi preghiamo, come sempre, per Papa Francesco, chiede di pregare per lui, per tutti i nostri pastori, per la Chiesa intera. Io assicuro le mie preghiere per tutti voi, vi chiedo di essere anch'io ricordato, e nell'augurare una santa notte vi rimando al prossimo primo sabato del mese con Diego Manetti. A presto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.